Quando Salomone ebbe finito di pregare, dal cielo cadde il fuoco che consumò l'olocausto ed i sacrifici, mentre la gloria del Signore riempì il tempio. I sacerdoti non potevano entrare nel tempio del Signore, perché la gloria del Signore aveva riempito il tempio. Tutti gli israeliti, quando videro discendere il fuoco e la gloria del Signore posarsi sul tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e lodarono il Signore, perché eterna è la sua bontà. Il re e tutto il popolo offrirono sacrifici al cospetto del Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 buoi e 120.000 pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono il tempio di Dio. I sacerdoti si tenevano ai loro posti, mentre i leviti, con gli strumenti di musica sacra fatti dal re Davide, lodavano il Signore, perché eterna è la sua bontà. Così Davide salmodiava per mezzo loro. I sacerdoti suonavano le trombe di fronte ad essi, mentre tutti gli israeliti stavano in piedi. Salomone consacrò il cortile interno di fronte al tempio del Signore. Ivi, infatti, egli offrì gli olocausti ed il grasso dei sacrifici pacifici, perché l'altare di bronzo eretto da Salomone non poteva contenere gli olocausti, le oblazioni ed i grassi. In quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni insieme a tutto Israele, un'assemblea imponente convenuta dall'ingresso di Camat fino al torrente d'Egitto. All'8° giorno si tenne una riunione solenne, perché la dedicazione dell'altare era durata 7 giorni, e anche la festa era durata 7 giorni. Nel 23° giorno del 7° mese, Salomone rinviò il popolo nelle sue tende, giulivo e soddisfatto nel cuore per il bene che il Signore aveva concesso a Davide, a Salomone e ad Israele, suo popolo. Salomone terminò il tempio del Signore ed il palazzo reale, riuscendo ad attuare tutto ciò che aveva in mente di fare nel tempio del Signore e nel suo palazzo. Allora il Signore apparve a Salomone di notte e gli disse: «Ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa di sacrifici. Se chiuderò il cielo e non vi sarà pioggia, se ordinerò alle cavallette di divorare il paese, se invierò la peste fra il mio popolo, se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilia, prega e ricerca il mio volto e si converte dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e risanerò la sua campagna. Ora i miei occhi saranno aperti e le mie orecchie intente alla preghiera fatta in questo luogo. Ormai ho scelto e ho santificato questo tempio, perché il mio nome vi rimanga per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno lì per sempre. Quanto a te, se camminerai al mio cospetto come ha camminato Davide, tuo padre, facendo tutto ciò che ti ho comandato e osservando i miei precetti e i miei decreti, renderò stabile il trono del tuo regno secondo quanto ho pattuito con Davide, tuo padre, dicendo: non ti mancherà un discendente che domini su Israele. Ma se voi vi volgerete indietro, abbandonerete i miei precetti e i miei comandamenti che vi ho proposto, e andrete a servire gli dei stranieri, e vi prostrerete davanti ad essi, vi sterminerò dalla mia terra che vi ho dato, e rigetterò dal mio cospetto questo tempio che ho consacrato al mio nome, e lo farò diventare una favola ed un oggetto di scherno fra tutti i popoli. Quanto a questo tempio, già così eccelso, chiunque passerà accanto rimarrà stupito e dirà: perché il Signore ha agito così con questo paese e con questo tempio? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, il Dio dei loro padri, che li ha fatti uscire dal paese d'Egitto, ed hanno aderito a dei stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per questo egli ha fatto venire su di loro tutta questa sventura.